questa società. Stamattina ce lo spiega Giulia Ventrucci, responsabile delle comunicazioni anche del blog di TUI.it. Ventrucci, buongiorno, benvenuta a Soldi e Dintorni. Buongiorno a tutti, grazie. L'abbiamo messa giù proprio scherzando con Alessandro Milan, ma sono andata assolutamente vicina alla realtà, perché oggi, anche se per un lasso di tempo molto limitato, sarà possibile accedere al vostro sito ed eventualmente partecipare ad un'asta per andare anche dall'altro capo del mondo, se possibile, a costi assolutamente praticabili. Come dobbiamo fare? Allora, buongiorno a tutti. Oggi si tiene su TUI.it la seconda edizione di Aste Day, quindi una giornata, appunto, come detto, interamente dedicata alle aste. Arrivati sul sito TUI.it, basta recarsi nella sezione aste, visualizzare uno dei 12 pacchetti che, insomma, si preferisce, si entra nella scheda dettaglio e da lì, se è la prima volta che si partecipa, la registrazione è contestuale al rilancio, quindi si decide quanto rilanciare questo pacchetto. Il rilancio minimo questa volta a partire da 1 euro, e se è la prima volta, appunto, è necessario inserire i propri dati insieme ai dati della carta di credito a titolo di garanzia. Quindi, insomma, il mezzo delle aste per piazzare dei pacchetti vacanze fra gli utenti del sito. È assolutamente un'iniziativa originale, Ventrucci, però voi non siete nuovi a questa modalità, peraltro avete già organizzato un Asta Day, mentre la metodica dell'asta la utilizzavate già prima, solo che era possibile partecipare almeno per 3 o 4 giorni. Sì, esatto, questa è la seconda edizione, la prima edizione è stata l'8 ottobre, le aste in realtà esistono da maggio 2007, con una modalità molto più lunga e molto più, diciamo, più flessibile, nel senso che di solito la media di un'asta dura dai 3 ai 5 giorni, anche in base al valore commerciale del pacchetto. È una pratica che piace ai turisti? È una pratica sicuramente innovativa e di conseguenza è piaciuta fin da subito, perché al di là della curiosità permette concretamente di risparmiare sul valore commerciale del pacchetto. Ecco, per esempio, quei 12 pacchetti che mettete all'asta oggi con 6 destinazioni, 3 evergreen invernali come Sharm el Sheikh, Capo Verde e Costa Tunisina, e anche delle novità per quello che riguarda appunto le mete prescelte, poi ne parleremo, mediamente quanto costano, e mediamente partecipando all'asta, sta anche andando al massimo rilancio, quanto sarà possibile, quanto potrebbe essere possibile risparmiare? Sì, mediamente i pacchetti di breve raggio come Tunisia, Capo Verde e Sharm el Sheikh hanno un costo a coppia di 1.400-1.500. Dipende però dal periodo in cui si va, Ventrucci. Esatto, si dipende anche dal periodo in cui si va. Qui abbiamo un periodo di partenza che va da novembre, quindi da questo mese, sino a marzo 2010. Con le aste si riesce ad arrivare anche a 800-900 euro a coppia. Quindi, insomma, un risparmio che può arrivare addirittura quasi al 50%, sì. Comunque il 40% sicuramente c'è tutto. No, mi stavo chiedendo anche appunto la modalità poi di partecipazione al viaggio, fermandolo oggi, vincendo l'asta, giudicandosi l'asta. Quindi si può partire fino a marzo, non è che poi troviamo, come dire, a sorpresa, una volta che abbiamo appunto, una volta che ci siamo aggiudicati l'asta, troviamo, come dire, un pacchetto bloccato, quindi dobbiamo per forza andare in un periodo predeterminato da voi. No, nel senso, quanta che libertà abbiamo di scelta? Fin da subito ogni pacchetto all'asta presenta una scheda di presentazione molto trasparente, dove vengono indicate le date di partenza disponibili, quindi l'utente decide fin da subito se partire, se scegliere una data, diciamo, del 2009 piuttosto che del 2010. Al momento del pagamento, della prenotazione stessa, esprime la data prescelta e ovviamente c'è una conferma piuttosto che una scelta diversa. Ecco, comunque in linea generale è la data che sceglie l'utente. Ventrucci, come ve lo siete inventati questo modello? C'entra la crisi o c'entra solo, come dire, proprio il modello commerciale nuovo per promuovere la vostra attività, visto che anche fra i tour operator immagino la concorrenza non manchi, e quindi bisogna, come dire, fare di tutto e di più per farsi conoscere? Sì, la concorrenza stava diventando sempre più spietata, nel senso che alla fine nascevano sempre più online travel agency, quindi agenzie di viaggio online, e tutte proponevano più o meno lo stesso modello di vendita. Abbiamo deciso di differenziarci guardando anche un po' a quello che facevano le aziende europee e anche oltreoceano, e ci siamo accorte che in Francia Nouvelle Frontière proponeva un metodo all'asta molto simile a quello che poi abbiamo poi, diciamo, copiato, tra virgolette, comunque è un copiare buono, quindi vantaggioso, e quindi siamo stati pionieri in Italia di questo metodo alternativo di vendita, che sicuramente è una canale promozionale più principalmente, più che diciamo di vendita stessa e di guadagno. Certo, anche perché, come dicevamo, ovviamente i pacchetti sono limitati, all'asta di oggi sono 12, ma i tour operator hanno accettato volentieri di mettere sul mercato i propri pacchetti viaggio, con il rischio anche a volte di svenderli quasi. Sì, i tour operator hanno accettato molto volentieri, anche perché questa volta, a differenza della prima edizione, abbiamo dato massima trasparenza anche al nome del tour operator, quindi per ogni pacchetto vacanza è presente una scheda con il logo del tour operator fornitore e una scheda di presentazione di questo tour operator. Quindi noi quando ci proponiamo il tour operator vediamo le aste come un canale di pubblicità anche per loro stessi. Oltre a quello che si spende naturalmente per aggiudicarsi il viaggio, qualora ci si riesca naturalmente ad aggiudicarselo, la vostra intermediazione costa qualcosa all'utente? No, non costa nulla. In alcuni casi, come Capoverde, è esplicitato fin dall'inizio che il visto è da effettuarsi in loco, quindi è escluso dal valore finale del pacchetto. Comunque sono 25 euro a testa e viene acquistato all'aeroporto appena arrivati all'isola di Sal. Benissimo, allora ricordiamo per concludere, Giulia Ventrucci, la modalità per partecipare su tui.it all'asta di oggi, all'asta day, che comincia alle 10, termina alle 16. Concretamente cosa dobbiamo fare, come ci dobbiamo registrare, come possiamo partecipare? Okay. Perché naturalmente io e Alessandro Milan non andiamo a fare il volo. No, io ho la valigia qui. È la valigia già pronta. Pronti? Per partire. Allora si va sul sito tui.it, in alto a destra si clicca sul bottone aste, si visualizzano i 12 pacchetti che oggi sono disponibili, si sceglie quale puntare. Si vuole. Si entra nella scheda, c'è scritto dettagli, si clicca dettagli, si entra nella scheda del prodotto, si effettua fin da subito il rilancio desiderato, si conferma il rilancio, quindi c'è un box dove si inserisce il valore commerciale. Bisogna stare collegati per tutto il tempo naturalmente per vedere sì, come esatto. va. Quindi. Per 6 ore solo, si inserisce, non so, mettiamo 10 euro, si va avanti, se è la prima volta si effettua la registrazione inserendo username, password e dati della carta di credito, se invece si è già giocato si utilizzano i dati già registrati. Esatto. Registrati. A questo punto si conferma il rilancio fatto precedentemente, si aspetta che qualcun altro rilanci e si viene avvisati tramite un'email che appunto il proprio rilancio è stato superato e si continua quindi a passo di rilancio fino alle 16 finché il vincitore tra virgolette viene chiamato prima telefonicamente e poi tramite email e poi viene sempre durante nel corso della giornata o nel corso della giornata di domani viene la prenotazione, la conclusione. Benissimo, in bocca al lupo per oggi, buon lavoro allora Ventrucci, a presto. Grazie molte, era la nostra amica Giulia Ventrucci, appunto responsabile delle relazioni e della comunicazione di tui.it. A Salvadanaio oggi parlo di mutui, ciao. Le notizie in primo piano, il Tribunale Supremo Federale ha concesso l'estradizione di Cesare Battisti dal Brasile. Battisti, l'ex militante dei proletari armati per il comunismo in Italia, deve scontare 4 ergastoli. L'ultima parola però spetta ora al presidente brasiliano Lula. In Italia mai pensato alle elezioni anticipate, così il premier Berlusconi il giorno dopo le parole del presidente del Senato Schifani, che aveva evocato le urne in caso venisse a mancare la compattezza della maggioranza. La maggioranza c'è, dice Berlusconi, completeremo le riforme di cui l'Italia ha bisogno. Per il calcio l'Italia ieri ha battuto in amichevole la Svezia 1-0 gol di Chiellini. Ma ieri era anche il giorno degli ultimi verdetti per le qualificazioni ai mondiali 2010 in Sudafrica. Passa la Francia che elimina l'Irlanda di trapattoni vicino al colpaccio e poi punita da un gol viziato da un clamoroso fallo di mano dei francesi nei supplementari. Qualificate ai mondiali anche Algeria, Portogallo, Grecia, Slovenia e Uruguay. E allora alle 8:35 minuti siamo pronti a partire con il sondaggio di oggi. Io sono o blanco o negro. Gris, no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, c'è una proposta di legge, è il nostro sondaggio di oggi, una proposta di legge presentata ieri, bipartisan, come si dice in questi casi, talmente bipartisan che ha fatto un po' arrabbiare, crea qualche malumore nella maggioranza. La proposta di legge è di dare, tra le altre cose, la possibilità ai cittadini extracomunitari in Italia regolari da almeno 5 anni la possibilità di votare alle elezioni amministrative. Un qualcosa che il presidente della Camera Fini aveva già anticipato, ieri è stata proposta, solo che c'erano, non so, Veltroni del PD, alcuni dell'UDC, l'Italia dei Valori, ma c'erano anche alcuni del Popolo della Libertà. E per esempio questo alla Lega non è piaciuto per niente, allo stesso Bossi che ieri ha detto: gli stranieri vadano a casa, non c'è lavoro per i nostri giovani, figuriamoci per loro. Allora, tra chi c'era seduto, beh, il sondaggio è questo: che ne pensate? Dareste il voto agli extracomunitari in Italia, regolari, che pagano le tasse da 5 anni, alle amministrative? Per ora il no è al 52%, ma siete veramente divisi. Fabio Granata, buongiorno, onorevole buongiorno. Del Popolo della Libertà. Lei era lì seduto a quel tavolo, a fianco a Veltroni, a fianco a Rao dell'UDC, a fianco a Orlando dell'Italia dei Valori. Prima della proposta ci spieghi che fa, che ci faceva in quel tavolo, perché molti oggi se lo chiedono. La Padania ha fatto la lista di dire: prendetevi questi nomi, tra cui lei, tra cui Flavia Perina del Popolo della Libertà. Beh, guardi, noi abbiamo fatto anche da questo punto di vista di più, abbiamo proposto una norma quadro sulla cittadinanza, perché la cittadinanza è una grande questione politica che va affrontata attraverso criteri nuovi e non si può andare avanti, come ieri il Presidente Fini ha detto, a forza di anatemi senza guardare in faccia la realtà. Ieri abbiamo firmato anche questa normativa perché è una normativa di iniziativa parlamentare e da sempre, da quando esiste il Parlamento, parlamentari di diversi schieramenti, se condividono un'impostazione legislativa, la firmano insieme, quindi non c'è nessuno scandalo. Capisco che questo, in questo bipolarismo muscolare su questioni del genere, ma poi molto consociativo su altre, suona male, ma insomma capisco qual è il clima in cui viene inserita. Allora, il ragionamento complessivo è questo: noi riteniamo che la cittadinanza non sia né un fatto etnico né un contratto sociale, ma sia un fatto laico e un'adesione politica a un progetto della nazione. Ci rivolgiamo ai cittadini regolarmente residenti in Italia con permesso di soggiorno e quindi con lavoro, che non sottraggono lavoro a nessuno perché già lavorano, e riteniamo che ai doveri devono corrispondere dei diritti, ma un'integrazione piena e anche una potente politica di sicurezza, perché vogliamo evitare che questi cittadini, in assenza di una capacità di integrazione nell'identità italiana, si richiudono alla loro identità di appartenenza. Questo, sì, guardi, vale soprattutto per i giovani. Il cuore della proposta, non quella presentata ieri, ma della norma quadro sulla cittadinanza presentata insieme al collega Andrea Sarubbi e firmata da oltre 50 parlamentari di tutti gli schieramenti, esclusa la Lega, è proprio nella introduzione di una sorta di ius soli temperato, cioè significa che i bambini nati in Italia da migranti regolari, quindi non è la sala parta a Lampedusa come propagandisticamente qualcuno dice, migranti regolari, residenti da 5 anni, bambini nati in Italia o che completano un ciclo di studi, devono essere considerati italiani, perché sono italiani, perché percepiscono la loro appartenenza anche attraverso molto spesso questa il dialetto. La proposta più ampia. Venendo alla questione del voto, perché lei dice bisogna far votare uno regolare che è qui da 5 anni alle amministrative, extracomunitario? Perché la cittadinanza si diventa attiva anche attraverso i diritti politici e attraverso il diritto di voto si fa sì che i migranti irregolari possano aggregarsi nelle forze politiche che ritengono essere più vicine alle loro sensibilità, evitando così la nascita di quei partiti islamici, per esempio, su cui ieri della Loggia, credo, sulla Corriere della Sera denunciava era pane bianco in Spagna. Sì, ma certo, c'è la nascita. Le chiedo questo perché la sta ascoltando, lo voglio salutare anche l'onorevole Gianluca Buonanno, buongiorno della Lega Nord. Le chiedo questa domanda, Granata, perché ieri la Padania ha messo in prima pagina Mohamed Game, che è quello che ha cercato di farsi saltare in aria a Milano davanti alla caserma, con la fascia tricolore, a dire: guardate, con questa legge Mohamed Game poteva presentarsi a Palazzo Marino e essere eletto sindaco. Questo è vero? È vero o no? Sarà vero in termini, come dire, di permanenza in Italia, ma non significa nulla. Se è per questo recentemente quella ignobile individuo che ha ucciso la figlia e che risiedeva in Italia da 19 anni era cittadino italiano, il cittadino pakistano, mentre la figlia, che era perfettamente integrata ai nostri usi e costumi ed era italiana a tutti gli effetti, non lo era ancora. Quindi giocare su questi espedienti retorici per costruire ragionamenti che non hanno filologico credo che sia del tutto sbagliato. Il problema, il tema vero, è che noi ci rivolgiamo soltanto ai migranti irregolari, che la nostra è una politica di integrazione. Non abbiamo la religione del dimezzamento dei termini. termini, perché quella proposta iniziale del passaggio dai 10 ai 5 anni, ma passando a una cittadinanza attiva e qualitativa, può certamente essere ragionata e discussa in Parlamento. Cioè il termine non è la cosa che più ci preme e interessa, ci interessa soprattutto l'idea dei minori, perché sui minori, paradossalmente, mi rivolgo anche al collega della Lega, noi giochiamo una partita di nuova appartenenza e identità. Cioè questi ragazzi che nascono in Italia, che stanno nelle nostre scuole, anche al nord moltissimi, che parlano i dialetti e che quindi hanno un radicamento sul territorio, se non li consideriamo italiani e li lasciamo nella terra di nessuno, li costringiamo per certi versi a rinchiudersi in un'altra identità. Dice li abbandoniamo. La Lega, più di ogni altra, di ogni altro partito, ha opportunamente sottolineato l'importanza dell'identità per i popoli. No, questi bambini che stanno dentro le scuole italiane, perché non devono essere italiani per un fatto etnico, razziale? Allora lo si dica chiaramente. Questa è chiarissima la sua posizione. Allora, onorevole Buonanno, sostanzialmente io la traduco così il discorso di Granata: vogliamo integrarli per evitare che nascano quei partiti islamici che già in Spagna si fanno, forse, e forse qualcuno dice vanno fatti anche in Italia, non è il modo giusto? La Lega perché è nettamente contraria? Beh, innanzitutto saluto Granata e lo stimo come deputato e anche nell'antimafia, dove tutti e due siamo nella commissione, però di tutto quello che ho detto non mi trovo d'accordo praticamente su nulla, nel senso che io faccio anche il sindaco in una cittadina del nord che si chiama Varallo, provincia di Vercelli, e vedo l'integrazione da sindaco ormai da 16 anni, quindi sulla trincea, sul campo, non nei palazzi, e quindi vedo costantemente quello che succede e vi faccio un esempio semplice ma molto capibile. Nella mia città ci sono il 5% di extracomunitari. Il 5% degli extracomunitari della mia città assorbe il 50%, cioè 10 volte tanto, gli aiuti che noi diamo alle famiglie disagiate per ticket, per gli scuolabus, per le mense scolastiche, eccetera. Questo che cosa significa? Significa che questo 5% ha bisogno del 50% di quello che il comune mette a disposizione perché ha delle grosse difficoltà. Se questo aumento di extracomunitari invece del 5% fosse il 10% nella mia città, faccio un esempio concreto, ci sarebbe un grossissimo problema, perché a quel punto nascerebbe sì il vero razzismo, perché secondo noi e secondo me il razzismo nasce dal troppo buonismo, quindi bisogna mettere dei paletti, bisogna fare un'integrazione contingentata, e per fare l'integrazione comunque bisogna fare in modo che non ci si scontri, che non ci sia questa differenziazione extracomunitario, voglio, posso e comando, rispetto magari all'italiano che per sua abitudine non va a chiedere niente, oppure quando chiede l'alloggio si vede sorpassato dall'extracomunitario che è appena arrivato e lui dice ma io sono qui da una vita e non mi date ma niente. Ma le chiedo, se sono più disagiati, questo cioè cosa c'entra con il voto? Perché lei non li vorrebbe far votare, per esempio, all'interno delle amministrative? Perché ci deve essere un'integrazione che vada per gradi, e quindi io sono contrarissimo al fatto che dopo 5 anni possono votare. Quello che si diceva prima anche la nascita dei partiti islamici come in Spagna, e che naturalmente arriverà anche in Italia, sarà un grossissimo problema. Cioè, quindi se non ci svegliamo, tra 10 anni ci mangeranno in testa, ma non perché siamo contro gli extracomunitari, perché dobbiamo difendere le nostre radici, forse, la nostra cultura, il nostro modo di vivere. Ma forse c'è il partito islamico perché non possono votare, non possono votare lei, magari voterebbero lei, guardi che non è che siccome lei non li vuole. Non è un problema che mi pongo, visto che prendo l'81%, ma no, capito, magari andrebbe all'83% con il voto degli non si può mai dire. È una battuta, però io ho un buon rapporto con molti extracomunitari, altri invece mi odiano, perché comunque nella città dove io faccio il sindaco si cerca di dare delle regole, ci deve essere il rispetto, molto spesso questo rispetto non c'è, cioè c'è molta gente che viene, pretende ma non dà. Bisogna invece avere rispetto e ottenere determinati diritti con il tempo, ma non in 5 anni. Perfetto. E quello che si è fatto vedere ieri alla Padania della foto, Mohamed Game con la fascia tricolore, beh, ha un certo impatto, no? Però obiettivamente Buonanno è un po', come dire, una provocazione, dai, in prima pagina. Credi sia tutto. No, non ho capito, è una provocazione però quella di Mohamed Game con la fascia tricolore. Ma è evidente, è evidente, però è una provocazione ma che ha un fondo di verità. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, dareste o no questo il voto agli immigrati extracomunitari regolari in Italia da 5 anni per le amministrative? Intanto saluto Elvio Pasca, collega giornalista di stranieriinitalia.it. Elvio, buongiorno. Buongiorno. Un attimo, sono subito da te. Voglio salutare, voglio sentire due pareri, se sono veloci. Andrea da Verona, buongiorno, che ne pensa? Buongiorno, buongiorno a tutti. Che dice? Niente, io volevo solamente dire una cosa. Sono sposato con un'extra comunitaria, un'equatoriana. Sì. Mi ha dato due figli meravigliosi. Io ho vissuto in Sud America per quasi 5 anni. Non mi risulta, per esperienza, che le agevolazioni che vengono date qui in Italia agli extracomunitari o comunque agli stranieri siano uguali anche per noi italiani nei paesi, soprattutto latinoamericani. Varierà da paese a paese. Comunque lei ha avuto questa esperienza. Sul voto sua moglie voterebbe? No. O è italiana? No, mia moglie non è italiana, no. È qui ancora col permesso di soggiorno da matrimonio, non lavora, è casalinga, però mia moglie, come equatoriana, dice: io non ritengo che sia giusto. Ah, non ritiene che sia giusto? No, non ritiene che sia giusto perché dice: non siamo italiani, non abbiamo la storia vostra, non abbiamo la... magari il voto alle politiche, ma neanche alle amministrative, cioè eleggere il sindaco di Verona, non vorrebbe, insomma, il sindaco della sua città. Va bene, comunque... Nel mio paese questo non viene consentito, e sto parlando dell'Ecuador, non sto parlando di Stati Uniti. Certo, va bene. Grazie Andrea, voglio andare a Treviso, da Idris, che mi dicono dalla redazione essere algerino, è vero? Sì, buongiorno. Ha finito di festeggiare? Sì, sicuramente. Siete ai mondiali, l'Algeria è ai mondiali. Non ho dormito tutta la notte, tranquillamente. Ha battuto però l'Egitto, l'ho vista anch'io, una partita che non potevo perdere, anche perché fortunatamente è andata bene. Ma però, scusi, 50% all'Italia, 50% all'Algeria. Va bene, va bene. Lei che dice, Idris? Contrario al voto, essendo anche cittadino italiano, ho la cittadinanza dal 2005, contrario al voto agli immigrati. Contrario, perché? Perché diventa un voto di scambio tra gli immigrati e la sinistra, tutto qua. Un voto di scambio, va bene, grazie Idris, molto efficace. Elvio Pasca, eccoci qua, stranieriinitalia.it è uno dei portali più seguiti dagli stranieri in Italia, che insomma per informarsi su tutte le normative, eccetera. Di questo tema parlano, chiedono gli stranieri, vogliono sapere, vogliono anche chiedere il voto, vogliono votare? Parlano, chiedono e si informano da anni, è vero anche che sentono parlare di voto agli immigrati dal 2003 e quindi c'è anche un po' di disillusione su questo. E sentivo insomma parlare Bonanno di integrazione a tappa, ecco, per molti questo sarebbe un ottimo primo grado di integrazione, insomma. Quindi lo vorrebbero, alle amministrative ovviamente. Lo vorrebbero, è chiaro che non c'è sempre una, diciamo, un'avanguardia in ogni battaglia di questo tipo, che c'è sempre un'avanguardia che la porta avanti. Anche le suffragette che chiedevano il voto per le donne all'inizio era una ristretta elite, vista anche a volte col fumo negli occhi del resto delle donne, ma non per questo non si battevano per un diritto valido. Mm. Onorevole Granata, dice il nostro ascoltatore da Treviso, ci ha detto è un voto, una cosa di scambio, insomma, con la sinistra, è contrario il nostro Idris da Treviso. Questa si è lanciata in un'analisi politologica anche abbastanza fondata, posso dire che anche da questo punto di vista molto spesso chi viene da altre culture si integra e tendenzialmente è un conservatore, anzi è molto attento ai dati della legalità rispetto ai flussi dei migranti. Ma detto questo, Bonanno, al quale ricambio la stima per ciò che facciamo insieme in commissione antimafia, anche come collega, ha detto delle cose intelligenti come sempre, però voglio contraddirlo su un punto, non contraddirlo ma specificare un punto. Noi non pensiamo ad una integrazione indiscriminata, cioè noi non vogliamo accentuare il numero di migranti irregolari che stanno in Italia, perché questa legge non ha alcun potere evocativo in questo senso, si rivolge soltanto a chi è già qui da almeno 5 anni e a quei bambini che, nati qui da famiglie regolari, svolgono la loro attività scolastica e quindi si integrano nelle nostre scuole. Il problema è in termini un po' diversi. Queste persone che lavorano, che hanno un percorso scolastico ordinario come quello dei nostri figli e dei nostri bambini, abbiamo un bivio: o li lasciamo in una sorta di limbo privo di cittadinanza, dove è inevitabile che si ripieghino, almeno questa è la mia analisi, poi può essere ovviamente non condivisa, nella loro cultura di appartenenza, perché l'uomo e chi è della Lega lo capisce più di ogni altro, perché hanno questa spinta culturale che penso sia fondamentale nel loro percorso. L'uomo ha bisogno di un'identità e di una bandiera. Questo bambino che cresce nelle nostre scuole si sente rifiutato come italiano, inevitabilmente si rinchiude nella sua identità di appartenenza. Allora, intanto questo elemento di riflessione, che a nostro avviso è molto importante, e poi un altro elemento, l'identità culturale italiana, e chi propugna il federalismo lo sa meglio di chiunque altro, è un'identità variegata e dinamica, ma la grandezza dell'identità italiana è la contaminazione, cioè il rinascimento italiano non è pensabile se non attraverso un miscuglio di segni e simboli che però l'originalità del genio italiano ha declinato in un modo ulteriore. Tutto questo è l'Italia. E allora sono qui da più di 5 anni, lavorano regolarmente, i figli vanno a scuola, non si capisce perché non devono votare. Essere chiamati a una nuova cittadinanza attiva. Buon anno, ho 30 secondi, insomma, su questo la Lega dice molto chiaramente, non è neanche nel programma di governo, è qui questa, insomma, linea del Piave, se mi consente questa immagine che voi non volete che venga varcata. Beh, il fatto che non sia nel programma di governo. Il programma di governo, vabbè, potrebbe essere aleatorio, perché ci sono anche altre cose che non ci sono e si fanno. Però noi, però, ripeto, continuiamo a dire questo: l'integrazione esiste e si fa, e ripeto, lo vedo sul campo. I bambini, che si diceva prima Fabio Granata, io li vedo nel municipio della mia città, vengono all'Informa Giovani, utilizzano il computer come gli italiani, sono sempre di più integrati. Bisogna dare tempo e bisogna far comunque capire al nostro popolo, alla nostra gente, che comunque siamo padroni a casa nostra, tra virgolette, che può sembrare brutto per qualcuno, ma è la verità, e dove noi dobbiamo sentirci sicuri, perché altrimenti veramente nasce il razzismo. Noi abbiamo bisogno di tutelare la nostra gente e far capire che viene da fuori, che c'è un percorso da fare, e dopo questo percorso, questo lungo percorso, più lungo, avranno un po' più anche lungo. Loro tutti i loro sacrosanti diritti, però si devono ricordare che sono ospiti e devono avere la capacità di capire che i nostri usi, costumi, religione, sì, eccetera, devono essere i nostri. Se non gli va bene, tornino a casa loro. Se gli sta bene, sono ben accetti qua, che si comportano e ci rispettano. Mi devo fermare. Allora, lo dareste questo voto? Il 54% per ora dice no, il 46% sì. Grazie a Laura Marchesi in redazione, Peter Bescapè regia, grazie a tutti i miei ospiti. Ci sentiamo, dando la linea a Oscar Giannino, domattina 7:30.